America 24. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, parate, fuochi d'artificio, bandiere, barbecue, archiviato il 4 di luglio, festa dell'indipendenza, l'America torna alla normalità. Dei problemi del giorno per giorno. Politica estera, provocazione della Corea del Nord, un nuovo missile lanciato con successo, questa volta balistico intercontinentale, potrebbe colpire l'Alaska. Trump si rivolge alla Cina e minaccia: se non farete qualcosa, faremo da soli. Ma le opzioni non sono molte. Che farà il Donald? Politica interna, balla il voto per la riforma sanitaria. Si ricomincia, i repubblicani restano spaccati. Infine, le sfide di ogni giorno. E di questa mattina la notizia che dopo 2 anni i produttori d'auto vendono meno e dovranno ridurre la produzione. Meno posti di lavoro? Forse. Ma l'intero settore, come vi ho detto giorni fa, è in trasformazione. Auto elettriche, auto che guidano da sole, camion che guidano da soli. Spariranno davvero i camionisti? Grande categoria storica, soprattutto in America, coi Teamster, il sindacato di categoria. E allora oggi voglio parlarvi di questa sfida, proprio per i camionisti. Non so in quanti ora mi ascoltano per strada, ma ne parlo con un personaggio noto ad America 24, Giovanni Paolo Facchinetti, camionista di Bergamo, che ci chiese come si poteva fare il camionista in America per dare un futuro migliore ai suoi figli. Ci è riuscito passando per il Canada. E ora, è possibile che gli sparisca la professione? Come reagiscono i colleghi? Sentiamo l'umore della categoria. America 24. Ma penso soprattutto che, come prima cosa, giustamente la tecnologia sta andando avanti. Infatti è dal 18 di dicembre 2017, sia negli Stati Uniti che in Canada è obbligatorio avere il logbook elettronico, ma che ne so io, il fatto di vedere questi camion sì che vanno da soli o magari con qualche robot sopra, vorrei vedere poi quando si buca una ruota o devono fare altre cose, diciamo, più manuali, come la mettiamo, anche perché... Ma lei ha ragione, come se la cavano? Perché questi grandi scienziati, grandi innovatori, e poi se si buca una gomma, ma il camion che guida da solo, non c'è mica l'autista che scende e cambia la gomma. Ma a me sembra che voi, tra l'altro, non guidate soltanto, fate mille altre cose, cioè è un lavoro più complesso di quello che può sembrare. Cioè, ma si guidi, c'è un navigatore automatico, vai avanti. Sì, infatti non è che noi guidiamo solo, ma dobbiamo fare anche un lavoro quasi di ufficio per quanto riguarda tutti i documenti quando poi si passa da una frontiera all'altra, tra Canada e Stati Uniti, al border. E poi anche, come dicevo prima, si brucia una lampadina, devi controllare il camion se ha delle perdite o di olio o di aria. Quindi lei dice ci saranno tutti i controlli elettronici che volete, però nel momento in cui manca l'olio ci si deve fermare, metterlo, bisogna in qualche modo organizzarsi, oppure ci si ferma ai margini della strada e si agisce. Questo è il senso, cioè un camionista fa altro, non fa soltanto la guida di un tir. Sì, infatti, e poi dietro anche al camionista c'è una famiglia, nel senso, quando noi portiamo tutti questi beni materiali per tutte queste famiglie americane e famiglie canadesi, io parlo di me perché appunto guido dal Canada agli Stati Uniti e dagli Stati Uniti al Canada, dunque nel tempo che noi dedichiamo tutti i giorni stando sulla strada, lo dedichiamo per tutte queste famiglie americane, per farle star bene, per farle andare in vacanza, perché il sabato e la domenica possono divertirsi con gli amici e avere la carne, avere tante altre cose, dove fare barbecue o dove fare altre feste. Non è che uno dice faccio il camionista perché guadagno tanti soldi, alla fine prendi quello che devi prendere normalmente, però lo fai perché ti alzi la mattina e sei contento di stare sulla strada e di guidare. Insomma, la passione è anche, lei dice, una missione anche morale nel contesto della nostra società. E certo, sarebbe triste pensare che i camionisti all'improvviso spariscono. Ma ci racconti il suo ultimo viaggio, da dove è partito, che cosa ha consegnato? Sono partito da Vancouver con il cibo surgelato e l'ho consegnato a Denver in Colorado e a Aurora in Colorado. Ho caricato birra da consegnare qui a Hamilton. A birra, ma lei lo sa che il primo esperimento di camion che ha guidato da solo è stato un camion che aveva un carico di birra, 50.000 bottiglie di birra, ha fatto 120 miglia. Un camion che è andato da Fort Collins a Colorado Springs guidando da solo. Ma questa cosa la turba, c'è una coincidenza strana qua. È lei che ha appena portato le birre e luglio scorso il primo esperimento è stato con le birre. No, non mi turba perché... camionisti penso che non, noi camionisti non moriremo mai. Ci dica che impressione ha di questa America, lei che la viaggia in lungo e in largo. Qual è l'umore dell'America oggi, visto da un camionista? Ma io resterò sempre impressionato da quando vedo questi paesini piccoli e la prima cosa che vedo sono le bandiere americane e questo ti fa capire quanto questa gente che vive in questa terra ama questa terra e darebbe la vita per questa terra. La girata in lungo e in largo questa tra nord America. E sud, del west, il centro, e sono stato in Georgia, in Texas, Nevada, Arizona, California, Utah, Iowa. Beh, allora scusi, noi le diamo un premio oggi. E il premio è all'italiano che ha guidato di più negli Stati Uniti, perché non credo che c'è qualcuno che la possa battere, vero o no? Non lo so questo, io so che ogni mattina sono in quelle strade lì. Allora Facchinetti, scusi, due cose. Primo, il premio America 24 Best Driver in America. Questo se l'è guadagnato. Ma, grazie. Ma lei prima parlava di bandiera, parlava di... Ma lei lo sa che in studio qui con noi, e adesso lo diciamo, abbiamo Emanuele Brignoli che come lei è di Bergamo. Emanuele, entra, perché così ti presentiamo anche ai nostri ascoltatori, perché devono sapere che c'è un producer, dovete sapere, il producer dello show. Emanuele, è un bergamasco, ditevi una parola tra bergamaschi. Beh, buongiorno a tutti, direi che non c'è bisogno di dire nulla di particolare perché l'accento già si sente, quindi oggi domina l'accento bergamasco d'America 24. Bergen de Hura e Bergen de Hota, allora possiamo dire. Beh, io sono un valligiano, nese in Valseriana. Io sono de Bergen de Hota. L'America è grande, ma Bergamo ce l'ho sempre nel cuore. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, ma resta come sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi abbiamo come sempre Giovanni Paolo Facchinetti, camionista di Bergamo, che ha preso un biglietto di sola andata per fare il camionista negli Stati Uniti. Giovanni Paolo, che canzone scegliamo per i nostri ascoltatori? Lei che è stato uno dei primi, se non il primo, alfiere del nostro solo andata. Pensando al mio lavoro, On the Road di Michael S.G. On the Road, naturalmente, per strada, perché il nostro Facchinetti è sempre e soprattutto per strada ad aiutare gli altri. On the Road di Michael S.G. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!